cresce senza avviso lui. Ti ghiaccia le idee tra le tempie. Fratelli di nuvole tra i suoi arti, le tue nuvole spirali e fumo, scivolando nel giorno che muore la tua speranza di uscirne fuori, chissà, forse sta già nascendo, chissà, forse sta già nascendo questa vita che fugge via, e vedo tra gli alberi un viso tagliente che dice no. Sigarette e passi, passi. Calore che sale dal deserto invisibile, che cosa vuoi sentire? Specialmente la tua mente che viaggia, effetto, effetto, e precisione. Città